Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Tutto il mese di agosto Elisa lo avrebbe trascorso con i genitori in un campeggio di Port Grimaud, in Costa Azzurra. Noi ci sentimmo come cani abbandonati in autostrada. Dovevamo fare qualcosa. Andarci pure noi. Sono Emanuele, vivo a Cuneo, 36 anni, padre di Giulia e Francesco, e sono ingegnere. Sono le 16:10 minuti in punto, quasi 11 di un bel lunedì 26 di maggio del 2014. Essendo il 26 di maggio ed essendo che ormai ci si avvicina molto velocemente a giugno, lo si vede dal fatto che le persone in giro per strada cominciano ad essere abbronzate, cominciano ad aver fatto i loro primi bei fine settimana al mare o dove gli capita. Insomma, arriva anche il momento di parlare dello spettacolo di chiusura di Voi Siete Qui, che ormai tutti conoscono come live. Tutti conoscono, è un po' esagerato, però tutti quelli che ci sono stati se lo ricordano come il live di Voi Siete Qui, che ogni anno chiude questo programma, anche se in realtà quest'anno la stagione proseguirà per tutto il mese di luglio, ma lo chiude formalmente, chiude questa stagione inverno-primavera di Voi Siete Qui. La data ufficiale del live di quest'anno è, se siete degli affezionati segnatevela, è giovedì 26 di giugno del 2014. Segnatevela bene, perché non ci sarà null'altro da fare. A quelli che già stanno pensando, ci sono i mondiali quest'anno, cosa succede il 26 di giugno? Guardate, giovedì 26 di giugno non succede niente. Vi dico, ci sono quattro partite, ma sono due alle 6 del pomeriggio, che sono Portogallo-Ghana, ancora, Stati Uniti-Germania. Però ripeto, è alle 6, quindi alle 8 meno un quarto avete finito e il live comincia alle 9 e mezza di solito. E poi alle 10 c'è un'Algeria-Russia, una Corea del Sud-Belgio, che sembra una roba da serie D dei dilettanti. Quindi per tutti quelli che hanno voglia di venire a sentirsi le 10 più divertenti storie, più divertenti per modo di dire, 10 tra le tante storie che abbiamo mandato in onda quest'anno raccontate dal vivo, la giornata è giovedì 26 di giugno 2014. A breve vi diremo anche come fare, faremo come al solito, faremo un piccolo form, un piccolo spazio dedicato sul sito delle 24 da cui dovete semplicemente inserire dati. È tutto gratuito, come al solito ci si ritrova tutti qua alla sala collina di Radio 24, ma c'è una novità quest'anno, perché è tutto come al solito, cioè chiude la stagione, è tutto gratis, basta iscriversi attraverso il sito, ma c'è una sorpresa molto grande che vi faremo, ancora non ve la diciamo, che faremo dal palco, dal vivo qui, dalla sala collina. Noi ogni anno cerchiamo di mettere un gradino in più, cerchiamo di far diventare lo spettacolo sempre un po' di più uno spettacolo, e quest'anno devo dire, grazie a questa sorpresa, lo sarà credo quasi completamente. Vi ricordo, giovedì 26 di giugno, segnatevi la data. A breve vi diremo anche come fare. Torniamo a noi, perché abbiamo una storia da raccontare, quello che facciamo tutti i giorni. Questa storia ha due punti di vista. Uno è quello dell'innamorarsi tutti insieme della stessa ragazza, che è una cosa che è capitato a diverse persone, o perlomeno a me è capitato, e a breve ve lo racconterò, e lo racconta anche ovviamente Emanuele. L'altra è invece, è la prima volta che hai visto uno dell'altro sesso, se sei un maschio o una donna, se sei una donna o un maschio, nudo. Dove eravate? Cosa è successo? Stefania scrive: avevo 18 anni e pensai che brutto l'uomo nudo. Raffaele invece: campeggio 78, vidi animatrice 23enne che faceva la doccia, visione tipo film di Edwidge Fenech. Dall'emozione e dall'imbarazzo scivolai sul pavimento bagnato, 7 punti di sutura e al pronto soccorso. 349 238 6666. Questa qui è la storia di Emanuele. Estate 1990, quella dei mondiali di Totò Schillaci. Io avevo quasi 13 anni. Del calcio e dei mondiali non mi importava molto. Al mattino leggevo Il Signore degli Anelli, al pomeriggio correvo. Correvo lentamente, facendo sempre lo stesso giro intorno al paese. 2800 metri che ripetevo anche 10, 12 volte, correndo anche per più di 3 ore. E ad ogni giro passavo davanti a casa sua, Elisa. Di Elisa era innamorato anche il mio amico Emiliano, che ogni tanto mi seguiva in qualità di allenatore con una vecchia bicicletta a cui aveva fissato una radio a batterie con la musica di Rocky 4. Insieme a noi c'era sempre anche Luciano. Luciano aveva 18 anni ed era il figlio che tutte le mamme avrebbero voluto avere. Educato, giudizioso, miglior studente all'Istituto Tecnico per Ragionieri. Posto assicurato in banca finite le scuole superiori. Inutile aggiungere che anche Luciano era innamorato di Elisa. Elisa aveva 16 anni, eravamo tutti innamorati di lei, perché vivendo in una piccola frazione di campagna era anche l'unica ragazza di quell'età, e che lei sapeva che Luciano, il più grande di noi, era innamorato di lei. E poi per tutti e tre la doccia fredda. Tutto il mese di agosto Elisa lo avrebbe trascorso con i genitori in un campeggio di Port Grimaud in Costa Azzurra. Noi ci sentimmo come cani abbandonati in autostrada. Dovevamo fare qualcosa, andarci pure noi, in tenda. Luciano aveva appena preso la patente e non so come riuscì a convincere i suoi a lasciargli la macchina della mamma, una fantastica Renault 5 nuova fiammante. Non era il modello turbo dei nostri sogni, ma era pur sempre una R5. Io ed Emiliano avevamo solo 13 e 14 anni, ma convincere i nostri genitori fu più facile del previsto. Luciano era l'idolo di tutte le mamme e non potevano dirci di no. Così, caricato zaini, tenda e fornelletto, partimmo per la prima vacanza tra amici con un'eccitazione e un'euforia che nemmeno la prima vacanza con la fidanzata avrebbe eguagliato. Perché lì avremmo rivisto lei, Elisa. Sull'autostrada verso Nizza la nostra R5 sfrecciava come la Ferrari di Alain Prost, e arrivati a destinazione ci trovammo in un enorme campeggio. La piazzola assegnata ci era assai distante dalla zona roulotte dove soggiornava Elisa. Così decidemmo di spostarci più vicino, trovando un angolino di terra in discesa e pieno di radici che spuntavano dalla terra. Ma eravamo a due passi da lei e ci sembrava il paradiso. Pronti via, subito in spiaggia. E qui un mezzo trauma. Ovunque mi girassi, c'erano donne in topless. Dalle anziane signore con la pelle color cuoio cotta da decenni di sole, fino a magnifiche ragazze tedesche, pelle chiara, capelli biondi e seni di granito. E il mio dilemma era: dovevo ignorarle passando per il bambino a cui non piacciono ancora le donne, oppure guardarle e commentarle passando per un maniaco sessuale? Nel dubbio cercavo di imitare Luciano, in fondo lui era il più grande. Elisa non sapeva della nostra visita, avevamo avvisato la madre di lei che ci aspettava, e comunque dei tre nessuno è mai riuscito a concludere nulla con questa nostra amica. Non ricordo esattamente quanto rimanemmo, probabilmente appena 3 o 4 giorni, ma a me sembrò un tempo lunghissimo, in cui ogni cosa era perfetta. La pasta cucinata al fornelletto era la migliore mai mangiata. La salsiccia con i fagioli, il piatto ideale per una calda giornata estiva. La baguette, decisamente meglio del nostro pane. E le radici conficcate nella schiena, molto più comodo del nostro materasso a molle. Tornammo a casa ognuno con l'intima convinzione di avere conquistato il cuore di Elisa. Io perché il più simpatico, Emiliano perché il più bello e Luciano perché il più intelligente. Naturalmente lei non scelse nessuno di noi, ma quella fu l'estate in cui diventai grande. In viaggio da solo con gli amici, imparai a cucinare su un fornelletto da campegno, patii la prima grande delusione d'amore, ma soprattutto ammirai un sacco di tette dal vivo. Ma lei non mi guardava neanche, ed io facevo finta di niente, ingollavo peroni e iniziavo ad urlare. Amici maschi, arriva sempre un momento in cui tutti ci si innamora della stessa ragazza. Forse non succede proprio a tutti, ma a me è capitato e sono sicuro di non essere il solo. Il mio grande amore in comune aveva un anno meno di me e faceva il liceo artistico. Ce l'ha presentata un giorno il mio amico Roberto Palermo, facendoci capire che a lui piaceva. Non era né alta né bassa, aveva i capelli rossicci, gli occhi verdi e una faccia sveglia. Si chiamava Carlotta. Il primo a innamorarsi è stato Roberto, poi a ruota ci siamo cascati anche io, il Fede e Mauro. Il nostro amore è durato circa un anno, l'anno della patente. Anche se era fidanzata, salivamo tutti in macchina assieme per raggiungerla il sabato sera, anche solo per vederla in giro in qualche locale. E se la incrociavamo, facevamo finta di essere lì per caso. La rincorrevamo tutti assieme senza considerare che il successo di uno avrebbe scatenato invidia e gelosia negli altri. Ovviamente il problema non si è mai posto, perché nessuno di noi si è mai fatto avanti veramente. Tutto questo è durato circa un anno. Ma l'anno dopo, quando già studiavo a Milano e cominciavo ad avere altre distrazioni, io e Mauro una sera abbiamo deciso di provarci fino in fondo per l'ultima volta, anche a costo di compromettere l'amicizia, in una sfida all'ultimo sangue. Carlotta nel frattempo si era trasferita a Torino a studiare belle arti e le abbiamo chiesto di ospitarci entrambi per una notte. Per compensare il piccolo vantaggio che aveva Mauro, che la sentiva più spesso di me, quel pomeriggio ero andato a tagliarmi i capelli, perché ero convinto di essere un po' più bello così. Quando siamo arrivati a Torino era quasi buio. Ad aprirci la porta di casa però si presenta Eva, la coinquilina di Carlotta. Bellissima, più donna, più alta, con la pelle chiara e i capelli neri. Non le stacco gli occhi di dosso, la sua bellezza mi distrae dal nostro obiettivo comune, ma a farmi tornare ai miei doveri ci pensa Aldo, un amico di Eva che si infila in camera per studiare con lei. Noi intanto usciamo con Carlotta. Quando torniamo, molte ore dopo, la camera è ancora occupata dai due che studiano. È tardissimo e non è ancora successo niente. Grandi risate, grandi chiacchiere, ma è più complicato del previsto. Da come è andata la serata ho capito che lei propende per Mauro, però dovrebbero essere da soli e comunque lui non si è minimamente accorto di avere quel sostanziale vantaggio. Carlotta è stanca, butta i cuscini di un divano per terra e dice: «Dormiamo tutti e tre qua». Io mi metto a sinistra, Carlotta in mezzo e Mauro a destra. Ma proprio quando spegniamo la luce, la porta della camera si apre. Aldo, con gli occhi gonfi dallo studio, ci dà la buonanotte e se ne va. Eva invece si volta e domanda: «Posso mettermi qui con voi?» Io sono stremato dalla sfida, ho capito che perderò, ovviamente. Ed Eva mi piace, e sarebbe la soluzione perfetta. Ma Mauro, che invece non ha capito niente, mi anticipa ed è lui a farle spazio. Quindi a questo punto c'è un momento di generale perplessità. Lui adesso sta vicino ad Eva, ma vorrebbe girarsi verso Carlotta. Carlotta invece vorrebbe girarsi verso Mauro, ma sta vicino a me. Io sto vicino a Carlotta, ma vorrei girarmi verso Eva. Eva sta vicino a Mauro, ma vorrebbe stare vicino a me. Insomma, tutti vorremmo essere in una posizione leggermente diversa da quella in cui ci troviamo, ma dirselo è troppo complicato. L'indomani mattina abbiamo le facce pallide della notte in bianco, tutti e quattro. Non è andata per nessuno, ma siamo comunque soddisfatti. Ci siamo giocati le nostre possibilità. Ce le siamo giocate male, però ne è valsa la pena. Dopo il racconto di Emanuele uno se lo immagina su una spiaggia da ragazzino, invece è in una piazza di un paese in cui è chiaramente in gita, è sfavatissimo, è appoggiato alla carrozzina del figlio e chiaramente non ce la fa più. Pronto Emanuele? Sì, ciao Matteo. Ciao, dove sei in questa foto? Ma dovrei essere a Lecce. Ok, insomma sei in vacanza comunque. Sì, se non è Lecce è Otranto, comunque era nel Salento. Ok, c'hai comunque la posa di chi... Di chi sta aspettando, sì, la moglie in giro per negozi. Emanuele, senti, torniamo un attimo a quell'estate. Era il 1990, giusto? Sì. E tu parti, tu sei piemontese, vero? Noi ci siamo sentiti già un altro. Mi ricordo la tua storia di un Natale di qualche anno fa. Sì, giusto. Sì, esatto. Sei piemontese di Cuneo, a parte che non capisco come a 13 anni uno faccia 2800 metri per 10 volte intorno al proprio paese. Cosa ti spingeva? Facevi atletica leggera? Non so come, cioè, poi l'ho fatto anni dopo, cioè mi sono iscritto in una squadra a 25 anni, lì però quell'estate avevo il pallino di correre e correvo. Una cosa che senza di solito... un allenamento, senza una tabella, per quell'età addirittura faccio cose sbagliate, perché da ragazzini bisogna fare cose più veloci, più brevi, io facevo cose lente, lentissime, lunghissime. Quindi, adesso sei un maratoneta, Emanuele? Sì, cioè, lo sono stato, per adesso corro dietro i figli e meno sull'asfalto, okay. Però ho fatto maratone, mezzo maratone. Senti, appunto, adesso sei sposato, hai dei figli ed è tutto a posto, però sappiamo che fine ha fatto Elisa. Ma allora, sai che il destino, perché l'ho rivista ieri, a una di queste biciclettate ecologiche per famiglie, dopo... Scusami, anche questa dal tono, più o meno lo stesso tono che hai nella foto, queste biciclettate ecologiche per famiglie. No, quando decidono le mogli. Ok, e c'era Elisa? E c'era, ma veramente, c'era Elisa che da un bel po' che non la vedevo, perché cioè, abita un paese di, non troppo distante da noi, si è sposata a un'azienda di floricoltura. Ok, magari non diciamo tutto, non vorrei che magari potesse, perché è già successo una volta, era una storia diversa, però che qualcuno si fosse riconosciuto nella storia e avesse detto, beh, magari se cambiavate il nome. Invece no, Elisa è tranquilla, insomma. Non le hai detto che oggi avresti raccontato una storia in cui lei c'entrava? Ma ci siamo intravisti, ma non abbiamo avuto occasione di parlare. Ok, è sempre una bella donna però Elisa, no? Sì, no. Emanuele, devo salutarti, dimmi solo dove vai in vacanza quest'estate. Quest'estate è un'altra cosa terribile, la crociera. Davvero? In crociera dove? E perché? Da Venezia a Istanbul. Ok, ma con tutta la famiglia? Sì, è lì un'altra scelta delle mogli. Vabbè, ok, volevo evitare di arrivare anche qui. Però Emanuele, mi prometti che giovedì 26 giugno vieni al live a vedertelo, a sentire le storie? Ma allora, con buone probabilità vengo, dai. Corso... col Vigili del Fuoco che finisce alle 7, ma dovrei farcela. Fai un corso di Vigili del Fuoco? Sì, mi toccano. Ha deciso, anche questo l'ha deciso la moglie, Emanuele. No, questo è la decisa, gli aggiornamenti della professione. Va bene, niente Emanuele, un uomo guidato, la vita di un uomo guidata dalla moglie e dalla propria professione. Devo chiudere dalla linea Oscar Giannino, ma ti aspetto il 26 di giugno Emanuele, grazie ancora. Non mancherò. Ciao, a presto. Ciao. C'è qualcuno che scrive, ma è a Roma mai? Guardate, a Roma aspettate una giornata e domani c'è una sorpresa che vi racconto giusto domani sera a Roma, che non ha a che fare con la radio, ma sono lì a raccontare altre cose. Invece il giovedì 26 di giugno alle 21.30 il live di Voi Siete Qui, qui ovviamente dalla sede di Radio 24. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Mauro Pescio. Grazie soprattutto ad Emanuele, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.